luna, ma non ci vivrei. Bastava restare a guardarla con lui, che metteva tutto il mondo in pausa ogni volta che spingeva play. Quando uscivamo la notte col pandino di mamma, sono quasi le sette, cazzo devo rientrare, le serve, deve andare a lavorare. Siamo come le macchine spente la domenica sera. Forse siamo tutti in attesa, magari di qualcuno qualcosa che ci accenda e che ci porti via. Sopra strade dimenticate, i primi giorni dell'estate, quando tutte le parole sono una promessa. Già buio da un pezzo alle sei, i motorini fuori dai licei, qualcuno aveva scritto in bagno, i nuovi mistici sono i DJ. Quando tornavamo dal mare, se mi lasciavi potevo annegare, adesso che sono sola, mi aggrappo a questo nodo in gola. Siamo come le macchine spente la domenica sera. Forse siamo tutti in attesa, magari di qualcuno qualcosa che ci accenda e che ci porti via. Sopra strade dimenticate, i primi giorni dell'estate, quando tutte le parole sono una promessa. E adesso dimmi dove sei, che ti raggiungo dove vuoi. E adesso dimmi dove sei. Siamo come le macchine spente la domenica sera. Forse siamo tutti in attesa, magari di qualcuno qualcosa che ci accenda e che ci porti via. Sopra strade i primi giorni dell'estate, quando tutte le parole sono una promessa.